quando non si ha niente dentro, che più niente non si può. Quando hai smesso di far centro, perché hai messo tutto quanto dentro, no. Quando tutto ti fa senso e ripeti non ci sto. Quando pensi ecco adesso crollerò, tieni duro ancora un po'. Non è il freddo di dicembre che raggela gli occhi tuoi, più nessuno ti sorprende con un gesto che ti prende, che tu vuoi. Quando basta una parola per rimetterti nei guai, quando scordi di non essere un robot, tu tieni duro ancora un po'. La vita non può finire così, no. Leoni non si nasce, si conquista da noi, senza chiederci mai cosa costa quel grammo di felicità. La vita non può fermarsi così, non ha senso che io spenda tutto per te, di stare nel vuoto non mi sento più. Sia un bel dire che una mano, trovi chi te la darà, ma poi scopri piano piano che per niente più nessuno niente fa. Non parlarmi di un amico, oggi non ne trovi più. È per questo che mi dico dentro me, dai tieni duro ancora un po'. Io non auguro a nessuno cosa sto provando, ma non mi stanco di ripetermi però, dai tieni duro ancora un po'. La vita non può fermarsi così, non ha senso che io spenda tutto per te, di stare nel vuoto non mi sento più. Meglio il velo del silenzio che discende su di noi, che il sapore di un rimedio, che rimedio forse in fondo poi non è. Quando è fresca una ferita, sembra non guarisca più, poi ti svegli e scopri che tu tieni duro ancora un po'.